ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornati, passate le ferie di nuovo insieme con Radio Next. Dall'altra parte del vetro Carmelo che ci aveva salutato prima delle ferie, che ritroviamo ancora insieme a noi, che ci permette di fare questo programma perché senza di lui noi non riusciremo ad andare in onda, come non riusciremo ad andare in onda senza il nostro ospite di oggi. Chiamo Raffaele Gigantino, country manager di VMware, a salutare tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno Raffaele. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito Pepe. Allora Raffaele, VMware è salita alla ribalta della cronaca in maniera positiva prima delle ferie, perché prima delle ferie, perché avete fatto un piano gigantesco insieme alla città metropolitana di Roma per permettere a gran parte degli statali di poter lavorare da casa. Allora mi racconti un attimino in breve chi è VMware e che cosa avete fatto con la città metropolitana di Roma. Perfetto. Allora iniziamo dall'azienda, quindi VMware è una multinazionale del software che offre principalmente i suoi prodotti alle imprese e ad oggi è focalizzata sulle soluzioni cloud, su soluzioni per la modernizzazione delle applicazioni, soluzioni di networking, di sicurezza e nel contesto che citavi precedentemente con città metropolitana, digital workspace. Sì. Quindi è una multinazionale americana fondata a Palo Alto nel 1998, 30.000 dipendenti, un fatturato globale di... Una piccola impresa italiana. Ok, va bene. E qual è questo progetto? Raccontaci un pochino di più, perché a me è incuriosito molto. Quando durante luglio stavo leggendo appunto di questo progetto, mi è incuriosito molto, tant'è che poi ci siamo sentiti, ci siamo contattati. Vorrei capire bene che cosa avete fatto insieme a Città Metropolitana. Guarda, con Città Metropolitana abbiamo, quello che dicevo prima, abbiamo fatto insieme ad un partner che ci ha aiutato nell'implementazione, sì. Quindi che mi permetto di citarlo, che certo. È R1 Group, sì. Un progetto di digital workspace, chiamiamolo così, perché abbiamo permesso quindi ai dipendenti di Città Metropolitana di poter quindi lavorare in piena sicurezza e avere accesso a tutte le applicazioni aziendali, quindi da remoto. E di quante persone stiamo parlando? Allora parliamo, siamo partiti con un progetto pilota di circa 200 dipendenti, sì. Ma questo progetto è partito pre-Covid, sì. Quindi prima devo dire che in questo il CIO è stato veramente lungimirante, sì. È partito con un progetto di digital transformation, poi il Covid ha accelerato e oggi ci sono circa 500 dipendenti che lavorano stabilmente in smart working e con un target per arrivare fino a 1200 dipendenti. Poi il dettaglio preciso chiaramente lo sa quindi il CIO, che è Jacopucci, certo. che saluto e vi permetto anche di salutarlo, certo, certo, pubblicamente, certo. Perché ha avuto veramente una grande visione. Una grande visione, insomma. Certo, questo sì, su questo non c'è dubbio. Quali sono stati i primi risultati che vi siete portati a casa in termini di produttività, di partecipazione e di adozione da parte delle persone? Allora guardi, questo è secondo me un punto, hai toccato un punto importantissimo, dal punto di vista della produttività chiaramente, ma questo non, credo non solo la città metropolitana ma tutti gli studi che stiamo vedendo, ma anche negli altri casi c'è un aumento di produttività, chiaramente il fatto di poter lavorare in mobilità e poter nella fattispecie lavorare da casa quindi chiaramente riduce i tempi di commute per andare al lavoro, quindi i dipendenti si sentono in alcuni casi più ingaggiati, riescono a dare anche un po', quindi a conciliare quindi lo spazio quindi lavorativo con la famiglia e quindi oltre ad essere più produttivi, perché aumentano anche il tempo, quindi in alcuni casi il tempo di lavoro, riescono a essere anche più contenti perché stanno anche vicino alla famiglia. E come puoi immaginare, nel periodo del Covid con le scuole chiuse, quindi molti dipendenti, ma anche i dipendenti di VMware nella fattispecie, hanno avuto quindi la possibilità di poter stare anche vicino ai propri cari, quindi per chi ha bambini, vicino ai bambini. Io ho notato che più le aziende sono grandi e più c'è un po' di resistenza a condividere i propri spazi privati con gli altri, tant'è che quando magari parli o fai delle videoconference con grandi aziende, tutti quanti con la videocamera spenta. Quando parli invece con aziende piccole, aziende smart, aziende veloci, poco importa che tu sia in montagna, al lago, in campagna, sei in cucina, sei ti passa dietro il figlio, tutti quanti, come dire, si mostrano. Tu come ti spieghi questa reticenza da parte delle persone a un coinvolgimento totale, tra virgolette, immersivo nello smart working? Allora, guarda, credo che sia culturale. Chiaramente, forse nelle grandi aziende, ma anche nelle grandi istituzioni, quindi governative, quindi il contesto lavorativo è molto molto separato, diciamo, dal contesto privato. In aziende più piccole, magari start-up, dove chiaramente c'è nascono proprio in ambito completamente digitale, anche dal punto di vista culturale secondo me c'è maggiore apertura, e quindi io me lo spiego come proprio un approccio culturale al lavoro. Chiaramente la sfida è proprio questa. Ecco, tu non pensi che si dovrebbero un po' superare questi limiti e incominciare ad accettare il fatto che la nostra vita non è fatta di compartimenti stagni, ma di attività che l'una con l'altra si intersecano, e che quindi, come dire, è normale vedere la cucina in disordine perché stiamo lavorando da lì, ma non so come dire, l'importante è il contenuto, l'importante è l'output che io do, o no? Ma infatti questo, diciamo, è il punto principale. Lo smart working non è diciamo lavorare a tempo, ma lavorare per obiettivi. Quindi bisogna focalizzarci sull'obiettivo, e bisogna focalizzarsi sul risultato. Quindi se le aziende si focalizzassero un po' di più sul risultato finale, come rendere per esempio i propri clienti più soddisfatti, come dare ai propri clienti flessibilità, secondo me poi se si fa questo passaggio di processo, anche dal punto di vista culturale poi si accetta anche di mettere un po' più a nudo anche la propria vita privata e fargli capire che magari lavorare per esempio dal parco, lavorare da un bar è comunque un qualcosa che poi produce una capacità di produrre risultati. Secondo te quanto tempo richiede un progetto di parziale o totale smart working per una media azienda? Tu mi hai parlato di 500 su 1200 dipendenti, quindi parliamo più o meno di una media azienda italiana. Sì, ma questo dipende. Devo dire, il Covid ha praticamente accelerato in modo esponenziale, diciamo, questo shift. Però secondo te, scusami, si tornerà indietro adesso da settembre, si ricomincia a lavorare, torneremo tutti quanti in ufficio? Ma io personalmente credo di no. Quindi anche noi come azienda, io scusami se ti interrompo, siamo 180 dipendenti in Italia, sì, e utilizzeremo gli uffici in modalità office as a services. L'ufficio diventa un hub di collaborazione dove trovarsi magari e quindi condividere esperienze e quindi fare brainstorming, però comunque riteniamo che almeno il 50% quindi delle risorse, se non di più, continueranno a poter lavorare in modalità agile, quindi da casa, magari in completo smart work. Mi piace molto l'idea del hub collaborazione e di co-creazione, dove magari le persone vengono una volta alla settimana, due volte alla settimana per avere momenti di socialità e poi tornano a produrre o comunque tornano a lavorare all'interno dei loro contesti in maniera totalmente, tra virgolette, destrutturata in termini di capacità e libertà di poter gestire il proprio tempo e le proprie attività. Ma tu hai misurato, comunque hai avuto modo di poter percepire un'efficacia da parte delle persone nell'utilizzo del tempo a loro disposizione, o c'è ancora oggi una forte dispersione e una mancanza di conoscenza di come fare smart working? Allora guarda, hai toccato un punto importante, la conoscenza. Smart working non è lavorare da casa, ma avere a disposizione quindi un ambiente digitale dove poter essere quindi produttivo in qualsiasi luogo. E quindi devo dire, noi siamo un'azienda, siamo abbastanza fortunati. La vision dell'azienda è any application, any device from any cloud, quindi permettimi di aggiungere questa frase in inglese. È molto importante, perché vuol dire che voi fondamentalmente siete in grado di non fermarvi mai, anche di fronte a nuovi lockdown. Non ci siamo mai fermati, noi abbiamo lavorato durante il lockdown, siamo stati vicini, diciamo, ai nostri clienti, quindi dimostrando che l'azienda comunque è resiliente. Mm-hmm. E devo dire, no, ma non solo, abbiamo aiutato la città metropolitana, diciamo, è forse uno dei casi più importanti, ma ci sono stati anche, diciamo, riconoscimenti pubblici da parte di altre istituzioni, vedi ACI Informatica, RAI, mm-hmm. che comunque, diciamo, nel giro di qualche settimana hanno fatto sì che i propri dipendenti potessero quindi lavorare in sicurezza da casa. Che il punto importante è questo, è anche la sicurezza, perché quando praticamente si porta la postazione di lavoro, quindi dall'ufficio, che in genere è molto protetto, dove ci sono i responsabili IT che chiaramente hanno un'attenzione alla sicurezza, spostare il luogo di lavoro, magari a casa o in mobilità, magari ti rende, diciamo, più vulnerabile, e quindi chiaramente bisogna avere un occhio quindi particolare alla sicurezza, quindi, delle informazioni. Quindi in teoria ognuno di noi dovrebbe avere un suo computer privato dove poter fare quello che vuole e un computer aziendale dove c'è un pochino una specie di DMZ, di zona demilitarizzata, dove in realtà ci sono i dati protetti dell'azienda e gli strumenti che mi permettono di poter lavorare. Sì, oppure utilizzare anche sul PC privato, esiste, diciamo, quello che gli inglesi dicono bring your own device, sì. Quindi delle chiamiamole bolle virtuali dove poter quindi lavorare in piena sicurezza e poter accedere alle applicazioni aziendali, magari all'interno quindi della stessa macchina, riuscire ad avere, diciamo, un'area privata e un'area personale. Tu, Raffaele, che sei sul mercato, questo bring your own device, cioè portatevi il vostro strumento da casa, non ve lo do più io imprenditore, ma voi vi utilizzate quello che volete, quanto si sta diffondendo, quanto effettivamente è accettato dalle aziende o è promosso dalle aziende, e quanto invece è rischioso in termini di sicurezza? Guarda, quello che vedo sul mercato italiano è che sicuramente il secondo device è accettato, quindi un device mobile che può essere magari un iPad, che può essere, diciamo, un device, quindi un tablet. Mm-hmm. Credo che il PC quindi oggi è ancora fornito quindi dall'azienda, ma sicuramente c'è molta più apertura e molta più flessibilità, specialmente poi nell'attirare, diciamo, i giovani che vogliono entrare in azienda. Quindi ormai l'utente consumer, quindi il nuovo dipendente che entra quindi in azienda, è abituato a lavorare con strumenti quindi molto molto innovativi, vedi Samsung, certo. Vedi gli iPhone di ultima generazione, quindi si aspettano che in azienda trovano quegli strumenti. Magari in alcuni casi, con politiche adeguate, quello strumento che loro utilizzano, diciamo, per la vita quotidiana, lo possono tranquillamente utilizzare in azienda per lavorare. Quindi sicuramente è un fenomeno che si sta diffondendo, facendo avanti, si sta diffondendo. Non in modo massivo, chiaramente le aziende private in questo sono un po' più avanti, le pubbliche amministrazioni sono forse un po' più lente nell'adozione, ma sicuramente siamo nella giusta direzione e credo che il Covid abbia accelerato, diciamo, questo processo. Raffaele, cosa risponderesti a quei manager o a quegli imprenditori che invece pretendono di avere i propri dipendenti in ufficio perché hanno bisogno di controllare che effettivamente stiano lavorando, perché vivono nell'ansia che da casa non stanno producendo, si stanno facendo i fatti loro, non stanno lavorando, non stanno collaborando? Ma io credo che iniziare a valutare i propri dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi. Quindi avere, diciamo, dei sistemi, quindi dei processi che siano legati all'output e non quindi al tempo, diciamo, al tempo speso in azienda. Poi è facile, devo dire, è facile a dirsi, è più difficile, diciamo, l'applicabilità, però è chiaro, come dicevamo prima, c'è bisogno di uno shift culturale. Quindi pensare che, diciamo, è l'obiettivo finale, quindi la soddisfazione quindi del cliente deve essere, diciamo, posta in primo piano e dobbiamo tutti tendere verso quindi quel risultato, a prescindere che uno possa lavorare da casa, possa lavorare dal bar, o dall'ufficio. È chiaro, ci sono alcune cose che però anche io credo che sia comunque importante farle in ufficio. Vedi, diciamo, momenti di brainstorming, la capacità di collaborare, certo, momenti di creazione, quindi condivisa tra i vari team. Quindi sicuramente la macchinetta del caffè, diciamola così, certo, è sicuramente un luogo aggregante che in azienda comunque crea un'esperienza che non è ripetibile lavorando tutti da casa, certo, o lavorando tutti da remoto. Raffaele, ti ringrazio tantissimo. Era con noi Raffaele Gigantino, country manager di VMware, che ringrazio e saluto, così come saluto tutti i nostri ascoltatori. Ancora grazie, Raffaele. Grazie. E allora, abbiamo ricominciato questa nuova stagione di Radio Next, che ci porterà ovviamente tutto l'anno a incontrare nuovi professionisti, nuovi imprenditori, nuovi manager del mondo del digitale, per cercare di condividere pensieri, per cercare di condividere case history e per cercare di condividere soprattutto cultura digitale per fare ripartire il paese. Grazie mille per essere stati con noi, vi ricordo i nostri appuntamenti: domani mattina, lunedì, il podcast in versione stessa, e la domenica alle 13.45 su Radio Next Radio 24. Un saluto da Pepe Moder. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.